lo sviluppo del dogma, la fede. I primi simboli della fede si riferiscono a Dio definendolo onnipotente, Pantocrator. Immediatamente si esplicita che questa onnipotenza include l'essere creatore. Sempre ciò viene riferito al Padre senza che si specifichino ulteriori attributi dell'atto creativo. Eusebio di Cesarea testimonia che già prima della metà del III secolo esistevano simboli battesimali che includevano la formula «Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, il creatore di tutte le cose, visibili e invisibili». Denzinger Unermann 40. All'inizio del IV secolo inizia a comparire l'espressione «creatore del cielo e della terra». Entrambi gli elementi sono raccolti dal simbolo di Nicea, 325, e da quello di Costantinopoli, 381, dove si giunge all'espressione «credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili». Denzinger Unermann, 150. Importante è il VI Sinodo di Toledo del 638, perché per la prima volta venne professata la fede nel Dio creatore in un contesto esplicitamente trinitario, parlando della Santissima e Onnipotentissima Trinità, creatrice di tutte le creature. Denzinger Unermann 490. Anche se già precedentemente, sia la struttura trinitaria di tutti i simboli, sia le chiare affermazioni a proposito del ruolo dello Spirito, confronta ad esempio la professione di fede di San Damaso della fine del IV secolo, avevano messo in evidenza che la creazione era azione di Dio uno e trino e che quindi né la seconda né la terza persona potevano essere escluse dall'atto creativo. Per esempio, nel secondo concilio di Costantinopoli, 553, appare la bellissima espressione «Uno, infatti, è Dio Padre, dal quale sono tutte le cose». Uno, il Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose. Uno è lo Spirito Santo, nel quale sono tutte le cose. Denzinger Unermann 421. Tali espressioni della fede servivano a difendere la dottrina scritturistica sulla creazione che si stava confrontando con le diverse cosmologie presenti nell'ambito culturale greco-romano. Queste ultime erano molto diverse, ma tutte basate su due punti fermi. 1. Dal nulla ontologico non può che venire il nulla, ex nihilo nihil fit. 2. Se il mondo nasce da qualcosa, non nasce da qualcuno. Ciò permette di comprendere la novità essenziale del cristianesimo fondato sull'importanza della persona, del qualcuno. Fra aristotelismo e platonismo, i cristiani preferivano il secondo per la carica spirituale di cui era portatore. Platone aveva come idea centrale la ricerca della felicità, intesa come permanenza nell'essere e immortalità. Si trattava di formare gli uomini perché potessero raggiungere la felicità eterna. Per questo bisognava purificare dall'antropomorfismo politeista il culto della polis, fondato sui miti e sfruttato anche politicamente per mantenere l'unità sociale. Socrate pagò con la vita questa posizione, che indicava l'autentico contenuto dei miti nella centralità dell'idea del bene. Limite del platonismo è la concezione del mondo materiale, che al più si può considerare occasione per arrivare alla dimensione spirituale, ma che comunque deve essere superato. Ovviamente, anche se Platone è aperto ad una rivelazione, la salvezza filosofica proposta è compito dell'uomo attraverso lo sforzo conoscitivo. I limiti sono particolarmente evidenti per quanto riguarda il rapporto tra Dio e l'anima umana e il rapporto tra il mondo materiale e il male. Secondo il mito della caverna, l'uomo, mediante il proprio logos, deve liberarsi dalle tenebre dell'esistenza. La possibilità che il logos stesso brillasse nelle tenebre di una grotta di Betlemme, cittadina sperduta alla periferia dell'impero romano, era ovviamente impensabile e inimmaginabile. Platone arriva a identificare Dio con il sommo bene, ma non in senso personale. L'anima veniva considerata come una parte o un'emanazione della divinità. Questa visione può essere in un certo senso connessa con lo gnosticismo. Il mondo materiale, per la mutabilità e la caducità, non può partecipare alla salvezza dell'uomo, per cui è necessario staccarsi decisamente da esso. Ogni realtà mutevole è irreale, solo apparente. I sensi sono poco affidabili perché ci indicano ciò che è materiale come reale. Alla base di ciò che appare c'è una materia prima preesistente. Tutto ciò che accade una sola volta non ha valore reale, metafisico. Solo la regolarità, cioè l'immutabilità, è in senso proprio. Negli gnostici questa dimensione del pensiero platonico si tradusse in un disprezzo del mondo materiale, basato su un dualismo estremo. Per sottolineare la differenza radicale rispetto alla dottrina della creazione biblica, bisogna tenere presente che 1. L'uguaglianza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con il loro intervento nell'unico atto creativo, si opponeva direttamente alla concezione gerarchizzata del rapporto tra Dio e il mondo, fondata sul ruolo del demiurgo o di una serie di gradi ontologici intermedi. 2. L'universo creato all'inizio del tempo si oppone frontalmente alla concezione greca dell'eternità del mondo e della preesistenza della materia. 3. L'incarnazione singolare e concreta del Logos cristiano si oppone alla manifestazione impersonale e immutabile del Logos filosofico. 4. La priorità data alla rivelazione e all'ascolto in ambito cristiano si affianca allo sviluppo deduttivo del sapere che costituiva il compito della filosofia. 5. L'affermazione della bontà del creato e della resurrezione della carne si oppone al dualismo materia-spirito. L'uomo, senza la rivelazione, tende a muoversi sempre fra due eccessi: o afferma che Dio è trascendente e per distinguerlo dall'uomo elimina la possibilità di ogni rapporto con lui, oppure cade nel panteismo, identificando il mondo con Dio. La tentazione ritorna spesso lungo la storia del pensiero. Si pensi al Deus sive substantia sive natura di Spinoza, o alla dialettica hegeliana che identifica il progresso del pensiero con il progresso necessario del mondo. Nel rapporto con queste concezioni filosofiche, la Chiesa prese posizione sia a nel Concilio Lateranense IV del 1215, sia b nel Concilio Vaticano I del 1870. A. Nel 1215, per contrastare le sette albigesi e catare, si ribadì che non esiste nulla nella realtà che non sia toccato direttamente dalla mano di Dio, rifiutando anche la dottrina di Pietro Abelardo, 1142, che vedeva qualche elemento necessitante in Dio stesso. Si tratta di uno dei pronunciamenti magisteriali più importanti e completi. Si riafferma che è la Trinità che crea, la temporalità dell'atto creativo, il fatto che l'uomo è creatura e partecipa sia dell'ordine materiale che di quello spirituale, che i demoni non sono malvagi da sempre ma hanno iniziato ad esserlo ribellandosi al creatore, che la natura umana aveva una totale bontà originaria. Nella definizione contro gli albigesi e i catari si afferma della Trinità: unico principio dell'universo, creatore di tutte le cose, visibili e invisibili, spirituali e materiali, che con la sua forza onnipotente, fin dal principio del tempo, creò dal nulla l'uno e l'altro ordine di creature, quello spirituale e quello materiale, cioè gli angeli e il mondo terrestre, e poi l'uomo, quasi partecipe dell'uno e dell'altro, composto di anima e di corpo. Denzinger e Unermann, 800. B. Nel 1870 poi la Chiesa dovette tornare su questi punti che venivano messi in pericolo dal mutato rapporto tra fede e ragione dovuto allo sviluppo della filosofia moderna. L'idealismo aveva iniziato ad influire anche sul pensiero cattolico con Anton Günther e Georg Hermes, la cui dottrina prima fu condannata nel Sinodo di Colonia 1860 e poi influì decisamente nella presa di posizione e nella formulazione della dottrina del Concilio Vaticano I. Nel primo capitolo della Costituzione dogmatica Dei Filius si ribadì la creazione dal nulla, sottolineando la perfetta libertà divina e il fatto che Dio non ha creato per accrescere la propria felicità, ma per manifestare la propria perfezione, Il testo appena citato del Concilio Lateranense IV è riproposto con la seguente specificazione: non per aumentare la sua beatitudine né per acquistare perfezione, ma per manifestarla attraverso i beni che concede alle sue creature, questo solo vero Dio ha con la più libera delle decisioni, liberrimo concilio. Denzinger Unermann 3002. Quindi si condannarono gli errori dualisti, il materialismo, il panteismo in senso generico e nelle sue forme immanentistica, Plotino, sostanziale, Spinoza, essenziale, Schelling, universale indefinita, Hegel. Se qualcuno afferma che le cose finite, sia corporali che spirituali, o almeno le spirituali, sono emanazione della sostanza divina, o che l'essenza divina manifestandosi o evolvendo diventa ogni cosa, o infine che Dio è l'essere universale e indefinito, che determinandosi produce la totalità delle cose, sia anatema. Canone 4, Denzinger Unermann 3024. Nel canone 5 si individua una triplice causa di questi errori. 1. A livello ontologico, la mancata distinzione fra creatore e creatura. 2. A livello psicologico, la negazione della libertà divina. 3. A livello etico, il mancato riconoscimento del vero fine della creazione. La dottrina del Concilio afferma che Dio crea non solo perché è onnipotente, ma anche perché è buono, perché dona. Dio non trae vantaggio dal creare, ma solo lascia l'impronta della sua bontà e della sua gloria nel creato stesso, nella più assoluta libertà. Dio poteva infatti non creare. L'idealismo riteneva che il male fosse il motore della storia, in quanto provoca la lotta e la dialettica. L'essere stesso consisterebbe nel susseguirsi di tesi, antitesi e sintesi. Questa è la prospettiva filosofica che ha permesso i totalitarismi del secolo XX e l'eliminazione sistematica di milioni di individui. E in modo velato, questa è la prospettiva che ancora oggi, dopo essersi alleata con quello stesso relativismo che ha prodotto come reazione a se stesso, giustifica i milioni di aborti che si consumano nel lancinante silenzio della nostra quotidianità. Come è evidente, fondamento di tutte le affermazioni del Magistero è la dottrina della creazione dal nulla, ex nihilo, che era stata sviluppata notevolmente dai padri. È probabile che etimologicamente creare derivi da crescere, per cui la specificazione ex nihilo è fondamentale per comprendere la novità dell'idea cristiana che terminologicamente si può ricondurre a Tertulliano. De prescrizione ereticorum, PL 2.26, ma che concettualmente risale ai primordi. Si tratta in un certo senso della prova del 9 per verificare che una concezione della creazione sia veramente cristiana. L'affermazione che Dio ha fatto tutto dal nulla fu una costante della prima patristica, come si vede ad esempio nel Pastore di Erma. Gli apologisti iniziarono anche ad aggiungere spiegazioni di questo concetto. Aristide scrive che la materia non può non avere un'origine, in quanto è soggetta alla corruttibilità. Taziano e Teofilo ribadirono la stessa idea, sostenendo che l'esistenza di una materia preesistente comprometterebbe l'unicità di Dio. Particolarmente importante è la dottrina di Ireneo, che dovette affrontare lo gnosticismo. Per lui, la professione della creatio ex nihilo e della sovranità di Dio sono sostanzialmente la stessa cosa. La creazione non è frutto del caso. Anche i padri posteriori ribadiscono la stessa dottrina, compresi quelli che si muovono in un contesto neoplatonico come Origene e Agostino. Questi armonizza la dottrina filosofica classica con la fede, affermando che Dio crea le cose a partire dalla materia prima, come dicevano i greci, ma che questa materia è stata da lui stesso precedentemente creata dal nulla. Un momento fondamentale nella formazione del dogma fu il secolo IV, quando si prese coscienza del fatto che quello che è creato non è divino e che quello che è divino non è creato, cioè che non ci sono gradi intermedi tra Dio e il mondo. In questo senso, creazione e dottrina trinitaria sono intimamente legate, perché a Nicea, nel 325, l'affermazione della consustanzialità del Figlio con il Padre implicava la negazione che il figlio fosse creatura e che ci fosse una scala ontologica che unisse in modo necessario Dio e il mondo. Anche l'anima umana è riconosciuta essere creata direttamente da Dio senza intermediario alcuno. Essa non è né parte né emanazione di Dio. Si nega quindi in modo netto l'esistenza delle anime da sempre, ab eterno. Ciò ha come conseguenza la chiara affermazione che il mondo materiale è buono in ogni suo aspetto, matrimonio incluso, in quanto voluto direttamente da Dio. Tutto è dunque dono del Padre. Questa dimensione di dono è legata proprio alla chiara comprensione dell'assoluta trascendenza di Dio rispetto al mondo e quindi dell'assenza di alcun vincolo necessario tra il creatore e la creazione. Ciò richiedeva la riformulazione delle categorie filosofiche sviluppate in ambito pagano, a partire da una concezione necessaria del cosmo. Per questo un secondo momento particolarmente rilevante nella storia del dogma della creazione fu il Medioevo, e in particolare il confronto di Tommaso con l'aristotelismo. Grazie alla sua riflessione si chiarì ulteriormente la distinzione tra discorso filosofico e teologico. L'Aquinate afferma infatti che solo per fede sappiamo che l'universo non è eterno, contra Gentiles, seconda, 31-38. Dalla prova razionale della necessità o eternità di Dio non si può dedurre la necessità o l'eternità del mondo. Dalla natura divina non si può dedurre quella del cosmo. Le idee necessarie possono mantenere un valore intenzionale, ma l'atto di porre in esistenza sfugge totalmente al dominio della ragione. Purtroppo Guglielmo da Occam corruppe la chiarezza di questa visione della creazione come frutto della libertà e dell'amore. L'intento di affermare in modo radicale l'onnipotenza divina lo portò a intendere la libertà di Dio nel creare come pura arbitrarietà dal punto di vista dell'arte divina e come mera contingenza assoluta o puro caso dal punto di vista del creato. Volontà e verità furono slegate. La legge della natura non fu presentata come partecipazione alla ragione eterna divina, ma come semplice imposizione esterna. Dio, secondo i nominalisti come Occam, avrebbe potuto rendere buono il rubare, perché tutto il creato è pura contingenza assurda e la bontà di un atto dipende solo dal fatto che Dio l'abbia dall'esterno dichiarato tale. Così tutto viene ricondotto all'autorità e non all'autorevolezza. Dio non sarebbe ontologicamente identificato con il bene e la bontà non sarebbe nell'essere, ma dipenderebbe solo da una dichiarazione estrinseca. Da questa prospettiva il creatore non avrebbe una vera relazione con le sue creature, ma se ne starebbe semplicemente in alto a dare ordini e imporre ciò che vuole. Si tratta di una concezione che ha grande influsso sulla cultura contemporanea, dove si riscontra l'idea diffusa che ciò che è logico non sarebbe libero e ciò che è libero non sarebbe logico. Un esempio comune è l'idea che sposarsi o avere figli, desiderio sommamente naturale, implichi la rinuncia alla propria libertà. Si può dire invece che l'atto creatore è libero, ma non arbitrario, razionale, ma non necessario. L'idea di libertà divina come arbitrarietà dipende da una interpretazione sbagliata della stessa libertà umana, che viene separata dalla verità. Essere libero viene identificato con il negare la natura, rifiutando perfino le proprie caratteristiche corporali o gli esiti naturali dei propri atti percepiti come imposizioni. La frattura introdotta dal volontarismo nominalista tra bene ed essere impedisce di cogliere i limiti, insiti nella dimensione finita della creazione come vie di accesso a uno spazio di libertà. Proprio perché Dio, creando con la sua volontà, non agisce in modo arbitrario, ma comunica quel bene con il quale si identifica, la creazione ha un senso. Nel finito si ha accesso, infatti, alla relazione con l'infinito, in quanto la filiazione e il dono sono la dimensione più profonda e più vera della creazione stessa. I limiti che caratterizzano ogni creatura sono quindi come i bordi del calice nel quale viene versato il vino per la messa. Sono uno spazio dove il bene si manifesta sia a livello naturale, il vino, sia per la grazia a livello soprannaturale, l'Eucaristia. Così si può scoprire che i limiti sono come una porta che apre a un nuovo orizzonte più ampio. Ad esempio, se una persona si sposa o ha un figlio, nonostante tutti i dolori e i problemi che possono sorgere da questo atto, ha accesso ad una dimensione del reale e ad una nuova esperienza della bontà dell'esistenza che non potrebbe mai conoscere senza il dono di sé, senza l'apertura della libertà. E questo perché Dio nel creare effonde la propria bontà, comunicando non solo qualcosa, ma in un certo modo comunicando se stesso. Il Creatore non solo dà, ma si dà. E questo dono è così vero e profondo da porre il Figlio come senso stesso della creazione.